a non fare cavolate, tipo quella che stavo per fare, tipo non registrare la puntata. Per fortuna me lo sono ricordato. E niente ragazzi, vi dicevo, quest'oggi andremo a snocciolare proprio la carriera di Caparezza, una figura che mi ha sempre ispirato molto e niente, quindi ho pensato di fare una puntata specifica su di lui, però spiegandovelo per bene, andiamo a capire bene chi era questo Caparezza e cosa ha fatto nella sua carriera, la sua evoluzione e niente, partiamo ovviamente dal primo album che già fa schizzare il tema in aria e si va. Poi vi parlerò bene di questa storia. Caparezza on the microphone, nel futuro proiettato come Tron. Coppa mia se mi hanno steso come un pugile, poco agile, facile starsene, cieco come un vicolo, butto fottuto pupazzo per il mio ventriloquo. Qui c'è un equivoco, signori della corte, resuscito se la mia sorte è una condanna a morte. Fortemente volli farmi calli tra i folli per capire che non ero tra quelli ma tra i ribelli. Faccio il mia colpa di una situazione che mi aveva tolto la gioia di vivere. Spacciava dosi di business tossico, mi credeva un pesce lesso dal lessico anoressico. Io scottato come il chili in Messico ci stavo, non rischiavo, buono e bravo, uno schiavo, ritratto in un contratto controproducente, la patente per guidare i gusti della gente. Per chi si pente non è per niente semplice andar via, non chiedermi come concedermi l'eutanasia, ma mettiti nei miei panni, prendi questi anni e dammi ai cani. Vedrai, nelle vene avrai vulcani e nelle mani piani su piani segreti strani tipo CIA, consapevole che sarà sempre sempre colpa mia. Faccio la mia colpa di una situazione che mi aveva tolto la gioia di vivere. Mi metto in gioco come un gatto col gomitolo, pronto a superare ogni ostacolo, a scongiurare ogni oracolo, a strappare a morsi ogni tentacolo. Faccio la mia colpa di una situazione. Beh sì, questa una canzone parecchio particolare e, però esprime un tema molto molto profondo. Cioè in realtà svela una realtà su Caparezza, che mo ci andiamo a svelare pure noi. Che fai, non te lo sveli il capa? Arrivo. Ok, vi dicevo, che cosa dice qua Caparezza in questa canzone strana? Che in poche parole lui fa un mea culpa, cioè si pente della sua situazione precedente. Che cosa aveva fatto? Non so se voi lo sapete, ma Caparezza è stato anche a Sanremo, non so se lo sapete, e con lo pseudonimo di Mickey Mix, e lui niente, lì era tutt'altro artista, ragazzi. Cioè era un personaggio che faceva canzoni d'amore, vestito bene. Quindi poi dici, com'è possibile questo cambiamento? E in realtà questa canzone lo spiega proprio. Infatti dice cose come la patente per guidare i gusti della gente, oppure c'è chi mi spacciava dosi di business tossico. Quindi lui praticamente, ragazzi, fa una denuncia nel 2000 dichiarata che in poche parole le major ti orientano a fare un certo tipo di prodotto solo per vendere. E lo dice, la patente per guidare i gusti della gente. Però ecco, questa non è tanto un'allusione, perché lui è veramente una persona che ha fatto questa cosa. Io poi mi sono anche letto un suo libro che spiegava praticamente tutte le sue canzoni, e dice proprio questa cosa nello specifico, che lui appunto... Andiamoci a sentire. Sentitevi la canzone di Sanremo e ditemi se secondo voi questo può essere Caparezza. Il giorno è rude, è come una palude, di giorno ne sì, scusate, da di crude, di tiepide, e quando ne ho viste abbastanza, rifugio nella stanza, sonno in abbondanza, stanco, sotto il mio rettangolo di tetto, cado morbidoso sul rettangolo di letto, din din don, 12 rincorsi. Scusate regà, ma morbidoso sul rettangolo di letto, mi è bastato. Cioè, te presenti chi è? Sì, questo qui. Cioè, quello di... Vieni a ballare in Puglia, esci fuori dal tunnel. Delle canzoni più folli della storia. Invece niente, va a Sanremo. E poi ragazzi, nel suo primo album, quello punto interrogativo e esclamativo, che già forse sembra essere una leggera allusione a qualcosa, e già ti dice in poche parole che denuncia questa cosa, questo modo di fare business delle imprese. Quindi pensate ad oggi come saremmo arrivati, come siamo ad oggi, se già Caparezza lo denunciava nel 2000. Però niente, appunto, andiamo avanti con la sua evoluzione. Quindi inizia così la sua carriera da Caparezza. Lui va prima a Sanremo, come Mickey Mix fa queste canzoni. Poi capisce che non è per lui. Dice, perché dovrei fare questa roba? Bam, si inventa Caparezza e fa una canzone dove lo dice e tante altre cose, ma principalmente questa canzone. Questa io la catalogo nel catalogo della musica, proprio in generale. E... vi consiglio un ascolto molto attento. Mi pedina, il fatto è che se sfugo alla logica tragica è la fine che mi si propina. L'acqua che butti sul mio fuoco diventa benzina, ogni insulto è manichino per la mia vetrina. Sappi che la mia dottrina se ne fotte di chi sta dopo e chi prima. Chi mi stima, mi stiga, stilare sti suoni, sti versi e sti ca. Godo se penso all'amaro che mastica, chi pronostica la fine della mia vitalità. Mi piace che mi grandin sul viso la finta sassaiola dell'ingiuria. Mi acqua

una persona che ti dichiara, dice, io non perderò mai la mia vitalità. Quindi se tu mi giudichi, a prescindere, prima o poi perderai. Bella per capa. E da qui già ero innamorato di lui. Però voliamo subito nel secondo album, con una canzone molto particolare. Ma prima vi metto la canzone che ha fatto caparezza sul concetto di secondo album. Qui comunque, ragazzi, come vi dicevo, seguiremo la sua evoluzione. Non è quindi una semplice le canzoni più belle dell'album, semplicemente seguiremo proprio le sue dichiarazioni nelle canzoni della sua evoluzione personale. Qui invece abbiamo la canzone che ha fatto riguardante il tema proprio del secondo album. Questa qui, ragazzi, questa di prima, La fitta sassaiola dell'ingiuria, sentitevela tutta, proprio con attenzione, ogni parola è usata ed è mirata a rispiegare il fatto del giudizio, il concetto del giudizio, sempre. Però vi ho detto saltiamo, perché sennò questa puntata durerebbe 9 ore, e allora andiamo a secondo album, ce lo spiega lui. Il secondo album è sempre un po' una riconferma per l'artista, no? Quindi è un po' complicato. Vediamo lui come spiega questo concetto. Lui ci ha fatto proprio una canzone specifica. La prima del secondo album, ovviamente. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. E invece è una canzone sul pregiudizio. Questo qui te lo spiego alla fine. Solo la retorica è rimasta la stessa. Beh, anche qui mi unisco a lui a criticare fortemente la retorica. Una cosa che si spiega a parole. Ok. Non è successa. È solo

che era partita nei due album, no? Primo album non lo sa manco lui, punto interrogativo, punto esclamativo. Questo è un estratto di Michelotto. Michelotto, calma le acque d'otto, che fatto che mi chiama su, io sono tutti sotto. Non mi caso, non è caso, al massimo è un caso da Johnny Bassotto. Ero ad una festa dance, del dance, mi si disse scavo una gemma, tu non sei delle holograms. Cacciato da chi dottrina la rima, manco il tempo di mangiarmi la nonnina e succhiarmi una fisherman. Cacciato da chi dottrina la rima. Quindi si ritorna su questo concetto che c'è qualcuno che decide chi, cioè chi va in onda tra virgolette e chi no, no? Cioè dici tu non sei ordinario, cioè non sei spendibile, non lo so, cazzo sei, Caparezza, che è sti capelli così, dici sta roba. E niente, lui ti dice tu mi hai cacciato. E poi lui ovviamente ha fatto una carriera molto molto proprio solo, non so, cioè vorrei dire solitaria, però intendo che incentrata su di sé, sì, molto più che solitaria. E qui ragazzi, cioè se state attenti, fa una cifra di giri di parole per dire questa cosa qui della sua, cioè del suo ritrovato se stesso, di come dubitare, avere transizione e comunque critica anche velatamente le persone che pensano che sia già tutto così, tutto giusto, tutto già messo, no? Lui dice come io ho vissuto tra un estremo e un altro e poi invece vengo cacciato da chi dottrina. La dottrina è proprio la parola che indica la tradizione, no? E quindi lui dice come fa a esserci una tradizione, una dottrina, se io so così matto. Cosa è successo non lo so quella sera. Oh salve Madame Tussaud, è qui per la mia brutta cera? Vado sul palco e mi respingono. Oh, e chi siete? Le sorelle bandiera. Sono vietato in minorati, spinto dai dirupi, da chi vuol per sé, tutti i pupi puri avati. Avanti la noia, la musica è troia, e nel mio cavallo basso c'è un ammasso di soldati. Nunzio Volis. Scusate raga, ma sono vietato ai minorati. Dovevo sottolineare. Crocifisso di appena non ho collocazione. Inutile cercare tregua nella religione, se nemmeno Geova mi vuole come suo testimone. 8 per 1000 c'è la fama, come dura la salita, se ce la fai ti dicono ma va fan. Nei confronti della vita un approccio sodomita, ma mo basta, terrò le spalle al muro. Parlo chi taccia consente, parlo con chi taccia call center. Mi scusi, lei non sente? Sto lontano da chi ride sempre, per non finire tra gli oncini che tiene nelle fossette. Non mi si sbrana, io mi assumo rischi, tu continui ad assumere marijuana. La creatività o la si ha o non la si ha, chi non ce l'ha, ma dove va come con la banana. Lucio Bobby, Claudio Manu. Questo pezzo lo adoro. Ti piace Capa? Ma quello è lo scemo di Sanremo. Bravo, vuoi qualcosa di più scemo? Ascolta il tuo demo. Dietro la patina colerica, ti vedrai bene a buona domenica, per quanto sei estremo. Pieno quei pochi amici che mi sono fatto, e tutti dicono il loro pane nel mio piatto. Ma porco Giuda, per te vostro un minimo di rispetto. Sei tu Wikimix? Tu l'hai detto. Ma sei tu Mickey Mix? Tu l'hai detto. Anche qui una negazione del suo, cioè come per dire, adesso che ho affermato questo, quello non esiste. Evoluzione, semplice concetto che lui però porterà all'estremo. Poi vabbè, ruolo che mi sta stretto. Vuoi capirmi, lascia il ponte, prendi un cazzo di traghetto. Vuoi capirmi, lascia il ponte, prendi un cazzo di traghetto. Mo non me ne frega nulla, vi prendo del tempo per spiegare questa cosa, raga. Cioè lui ti dice banalmente, sembra banale, ma ti dice vuoi capirmi? Lascia il ponte, prendi un cazzo di traghetto. Cioè tu dici se tu vuoi capire una nave, non puoi capirla dal ponte. Cioè, non criticare me. E questo, regà, io su questo sono super d'accordo, e anche lui ha fatto varie canzoni, tipo La mia parte intollerante, e anche quella di prima, comunque, sulla fitta sassaiola dell'ingiuria, sui giudizi. Quindi su questa, così, capacità di giudizio un po' inventata e non basata sulla comprensione dei differenti punti di vista nella vita. Tutti dicono, se tu parli con una persona, quello dice, no, ma ognuno è diverso, ognuno ha un punto di vista diverso. Però poi, cioè, le persone, se non rispecchiano i tuoi schemi, per te sono strani. E allora, sì, che vuol dire? Ti ho detto, io sono un traghetto, tu sei un ponte. E perché di che mi critichi? Perché c'hai con me? So di aver tolto se c'è chi è d'accordo con me, e non ricordo nemmeno dove l'ho letto. Che faccio? Mo che come Petrolini mi dicono bravo pure quando taccio. Se taccio termine, non termino se vado a braccio. Ma sono io colui per cui mi spaccio. Non si avanti, scaldi un magno. Ci lascia con una sequenza di queste voci qui. Comunque, ragazzi, cioè, avete sentito che demoni? Che demoni? E andiamo a seguitare con l'evoluzione del dottor Caparezza nell'album Habemus Capa. Anche proprio l'album si chiama così, proprio a rafforzare, determinare questa sua conquista di una personalità magari un po' più definita. Qui in realtà ho preparato questa che non è che è proprio quella, vabbè, sì, dai, questa è una canzone che parla della corrida, ma dal punto di vista del del toro. Cioè, questo è, sì, è molto figa, però, cioè, fa sicuramente capire questa sua tendenza a non essere minimamente, diciamo, sì, diciamo, ordinario, o comunque seguire ciò che va per la maggiore. Cioè, lui ha detto proprio, adesso mi sono affermato, io faccio veramente quello che mi passa per la testa, capito? Non sono vittima del giudizio. Quindi, oh, forse c'entra, dai, sentiamo. Io di natura sono ragionevole, anche se di cultura debole. Il torero che lo sa fa l'autorevole, si comporta come un onorevole. Vuole impormi le sue regole, per la fama ammazzerebbe pure la prole. Della corrida si crede l'Ercole, beh, molli la spada e mi prendo a sventolare. Rifate mutevole, ma stavolta sono io che batto te. Olè! Matador, te la prendi con me, ma stavolta sono io che prendo te. Non c'è più via d'uscita, è finita, amico, devi perdere. Rifonderà la spada perché è il tuo sangue quello nella polvere. Senti i paganti sugli spalti, in tanti sono dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Dalla parte del toro. Cioè, capite quant'è intraprendente, stravagante, fare una canzone dal punto di vista del toro, con ogni rima che finisce con olè, quindi anche quanto sia personale il prodotto. Questo è un altro tema che a me mi interessa molto discutere, affermare, quello appunto del prodotto personale. Cioè, in che senso? Che comunque è importante ricordare che un artista deve fare qualcosa per sé, non per il pubblico. Deve portare al pubblico qualcosa che lui fa per sé. Ecco perché è un artista. se lui lo fa già direzionato al pubblico, non è un artista. Cioè, potrebbe esserlo, però è diverso, perché se io produco una cosa mia personale e riesco a coinvolgere altre persone solo da un ascolto, è quella la mia capacità. Se io perdo la capacità di creare qualcosa di unico, ecco forse il termine che cercavo, unico, di più che personale, e sicuramente questo, cioè questo mi porterà degli aspetti sicuramente migliori. Quindi qui che cosa facciamo? Ci andiamo a sentire una canzone che è molto un riassunto di tutto ciò di Caparezza, e di cui parla della sua parte intollerante. Questa è molto più famosa, e però cioè mi piace metterla perché spiega proprio questa sua avversione nei confronti di un certo tipo di persone, io dirò, ma in realtà si intende atteggiamenti. Quindi, come dicevamo, lui ha un distacco, poi un riaffermarsi, cioè, capito? Quindi è un'evoluzione, è un qualcosa di dinamico. Poi esplorare i propri gusti, ecco perché questa dalla parte del toro. Cioè fare una cosa che è totalmente sconcertante, no? Oppure fuori dai canoni, però con molta serenità, perché è una cosa per se stessi. E qui, ecco, appunto, spiega quanto in questa canzone spiega quanto queste personalità così, che stanno a posto a fare cose per se stesse, siano a disagio con gli altri. Unitici, una classe di classici, figli di dubbi amletici, tipici dei 16. Di essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, vedessi, amici che spesso mi chiamano Nancy. Indefessi, mi pressano come uno stencil. Boss Spencer e Terenzi, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti, da divi che invidi, vengono i brividi. Sempre fare i fighi, lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridono come dito ta, però che mansueto come... Se ci vogliamo soffermare, non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi cioè, scusate, prendo pochissimo tempo, però solo per dire, erano il 2006, lui dice: se non parlo di pallone, fighe e vestiti, sono fuori da ogni discussione. Ti hai capito? Però una personalità artistica, una personalità che viene stimata dagli altri, però poi non riesce a parlarci. Questo è un po' il concetto dell'albatro, no? Quello di Baudelaire, forse. Ma andiamo a vedere perché Caparezza odia le persone. Le persone... No, non mi esprimerò. Questo tipo di persone. Conoscono ma tirano le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridono come dito ta, però che mansueto come me sa che, quando le palle si fanno cubiche come un kamikaze che si fa di sa che, metto fuoco intorno a me. Che mansueto come me. Quindi non è aggressivo, la mia parte, anche se dice che ti fa esplodere. Che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. A fianco al mio banco un ippopotamo sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco, ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi maravitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi. Mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi, studio in una classe di risosi, eccitati dai globuli rossi manco fossero bella Lugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gesti eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demo, che detesto il cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro World of Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride, ma sappi che se mi provocherai sono guai. Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride. trovo molto interessante la mia parte intollerante che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli del cazzo e più gay, più dreadlock e meno moncler, più stratocaster e meno DJ. Chiama la strega di Bear, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente. Io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, inclina ad azioni violente. Si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso, meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto, perché non dicono io mi interesso, che se inculi non ci presso. Dunque, tanto il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi come Francesco d'Assisi e Pippi calze lunghe. Dato che il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi. E poi sbaglio la rima apposta, perché è così. Che quando uno è creativo non segue schemi, non mi frega un cazzo di quello che fa, perché lo sta a fare. Cioè, non è che mi frega un cazzo, cioè non lo so, non voglio dare un'immagine sbagliata, però sta facendo qualcosa che gli piace. Dice, quando tu fai qualcosa che ti piace, come fai a sbagliare? Scialla, capito? Se tu fai qualcosa perché qualcuno vuoi che qualcuno ti apprezzi, ti dica che sei bravo, sono il più famoso, sono il più forte, è lì che poi cadi in depressione e tutti i cazzi, c'hai bisogno dei follower, like. Tu fai una cosa perché ti piace a te, non c'è bisogno di sta roba. Però queste sono le persone più creative. Questo è punto. No, quelli che fanno il contrario. Proprio quelli che fanno questo. Adesso noi ci andiamo a sentire. Andiamo, ragazzi, sulla prossima canzone. Vi rilascio questa del toro in sottofondo. E vi dicevo, andiamo avanti con la prossima canzone, che appunto spiega questo suo processo. E come diciamo qui, vedi, vedete, sentite. Scusate, campanello. Sentite, cioè, come lui comunque critichi apertamente, dice solo, cioè, è brutta questa cosa, secondo me. Cioè, il fatto che delle persone creative debbano sentirsi sole. Mi pare una bella stronzata, cioè, nel senso, io faccio un quadro, mi stimi, sono la stessa identica persona, senza fare un quadro, sono un coglione. Questa cosa non ci riesco a passare sopra, raga, non riesco a capire questa concezione. E per fortuna, a quanto pare, Caparezza anche ci ha fondato una carriera su questo concetto. Perché è giusto. Perché parte proprio da accorgersene. Perché gliel'hanno privato. Ecco perché lui fa questo. Perché all'inizio gli danno Mickey Mix, canzoni preconfezionate, non fa per lui. Cioè, lui dice, sì, se io volessi veramente fare una canzone, come la farei? Non così. E quindi niente, questo poi non puoi tu accettare compromessi per ottenere seguito se realizzi questo. E quindi niente, ragazzi, di certo Caparezza è un esempio assoluto. Però ecco, qui voglio farvi un piccolo recap. Siamo partiti appunto da Sanremo, un personaggio totalmente differente da quello che è adesso Caparezza. Poi c'è il primo album con delle domande, interrogativo, dove parte dicendo è mia colpa, colpa mia di quello che ho fatto prima, perché ho accettato queste condizioni. Più la fitta sassaiola dell'ingiuria, tu sarai sempre giudicato indipendentemente dalla carriera che scegli. Quindi queste sono intanto le prime motivazioni che lui dichiara. Quelle che noi possiamo intendere, almeno. E da qui poi evolve come? Con il secondo album, dove ti dice dualismi. Fa dualismi. Cioè, c'è sempre una parte dentro, una parte fuori. Cioè, questo Caparezza era già dentro, quindi

nonostante è così. Questo è il bello, che lui alla fine ce l'ha veramente, veramente fatta. Nonostante lui sia partito dicendo io sono totalmente stravagante, farò tutte cose, una più strana dell'altra, dichiaro cose, faccio enigmi, parole strane, voce strana. Bella prof. Niente, poi alla fine va, diventa famoso perché è rimasto fedele al suo criterio di artista, di quello che è un artista. Questo secondo me chiunque resta fedele a quello che per lui è un artista e non cambia mai in base al pubblico è quello che raggiunge la vera fama. Questa è la musica vera di cui ci parla, di cui io provo a raccogliervi e parlarvi in questo programma, delle persone rimaste fedeli. Poi voi direte, come fai a sapere? Ovviamente non è che lo so per certo. Infatti condivido con voi le mie intuizioni che ho avuto in base alle canzoni che ho sentito, anche ad altre cose come concerti, approfondimenti magari su internet o parlare con altri che ne sanno. E qui ragazzi c'è una canzone, si chiama Pimpami la storia, a me mi fa volare, ma il concetto è bellissimo, cioè il fatto che dice, cioè no, il concetto abbastanza banale, nel senso lui dice che visto che la storia è scritta dai vincitori, no? Dice scriviamo la figa. Cioè dice scriviamo la figa, cioè non diciamo cose, che ne so, noiose, così tutti votano, cioè tutti sono contenti, essi italiani, capito, di la monarchia. Democrazia, come mettere la PSP col Game Gear, cioè capito, CD con una traccia, il nonno di Eminem minaccia tutta l'Europa, deve suonare il piano Marshall, questa è la storia. Cioè raga, il nonno di Eminem minaccia tutta l'Europa, dovrà suonare il piano Marshall. È una battuta talmente trasversale che è assurda, cioè non lo so, mette insieme concetti totalmente differenti su piani simili per poi dire un altro concetto in modo in realtà ironico. Cioè no. No, cazzo. Dalla storia cancella i fricchettoni. Che buoni. Gli anni di piombo, le stragi, sequestri. Ma no, non mi interessano argomenti come questi. Io di quei tempi voglio ricordare solo la liceale nella classe dei ripetenti. Così funziona, per fortuna fa trend. Il vecchio libro lo rottiamo tipo d'una weekend. Adesso serve un finale potente che terrorizzi l'Occidente più dell'urlo di Chen. Da qui in avanti qualunque cosa succeda, scrivi che la colpa è di Al Qaeda. Me l'hai pimpata di brutto prof, vedrai patiti della storia fin dalla scuola media. Questa è la storia, prof, all'inizio, la vera storia, prof. E non c'è niente da ridere, non all'inizio raga fa delle metafore su questo concetto di, su questo concetto qui, che quando voilà ve le faccio risentire, scusate se faccio queste cose a spezzoni, però bella prof, che schifo Garibaldi, vestito dai saldi, peloso come Garfield, via la camicia rossa e dagli una t-shirt russardi su jeans cavalli, sulla faccia lente a goccia Ray-Ban, e poi taglia la barba sta capoccia dai mam, un unciacu da Jackie Chan gli dà più charme, ora sì che guerra c'ha i più fieri dei fan. Bella mondiale la seconda guerra, ma su sto libro è dato che abbiamo ingoiato merda, è regolare che non studia nessuno, scrivi Italia batte il resto del mondo 18-1, i campioni siamo noi, siamo noi, perciò aggiungi pop pop pop pop, pop. Il capitano è regolare che non studia nessuno, scrivi Italia batte il resto del mondo 18-1. Pam! Grazie Capa per avermi ispirato questa puntata. Sei veramente un grande. Io ragazzi lo stimo personalmente. Ti dico, sono, cioè come dicevo anche nella puntata scorsa, esistono persone. Ok, essere musicisti, raga, però questa è una persona, cioè quello che pensa ha messo in musica e quello che pensa secondo me è di Cristo. Cioè nel senso, c'è un'idea su tutto, opinioni su tutto, sempre comunque trasversali, imparziali. Cioè dimostra cultura, dimostra apertura mentale, dimostra creatività, dimostra ironia. Io non so che cazzo deve fa una persona per essere considerato forte, un artista. Per me, personalmente, questo. Quindi è sicuramente uno dei miei artisti preferiti, una delle persone che stimo di più. Che vi metto la canzone più strana? Questa usanza non la voglio perdere. La prendiamo da quest'album. Ah, poi vi dico, sì ragazzi, siamo arrivati all'album quarto, Dimensioni del mio caos. In realtà questo è un concept album, ovvero uno di quegli album che ti devi sentire non con il casuale, tutti di fila, cioè dalla prima all'ultima in ordine, perché appunto ogni canzone richiama quella dopo. E infatti qui c'è anche uno spezzone specifico, un outro ad ogni canzone che introduce poi quella dopo. E beh, detto questo, ve le farei sentire tutte. Per me so potremmo sentire dall'inizio alla fine adesso. Però invece siamo in chiusura. Purtroppo questa puntata del Tampillo finisce qui. La carriera di Capa non è finita, quindi vi annuncio già da adesso che la prossima puntata sarà comunque sul Capa e sarà il continuo di questa. Andremo a finire i suoi album e la sua carriera. Vi dicevo, siamo a Dimensioni del mio caos, anno 2008, quindi ce ne abbiamo ancora un po' di anni. E abbiamo analizzato la sua evoluzione e adesso vi chiudo con la canzone più strana di quest'album. Quest'album tra l'altro è proprio quello di Vieni a ballare in Puglia, quindi... Però sapete che il vostro Tampillo è molto molto strange, quindi saluto il Gianluchino, bella Gian, sempre fedele, fedele listeners. E tutti voi ragazzi che mi avete ascoltato, sì, so che la S non serve, però boh, mi piace anche fare un po' queste cose. E niente ragazzi, vi dicevo, vi saluto, saluto tutti i ragazzi di Roots Radio, che stiamo ripartendo alla grande. E saluto tutti a casa, tutti quelli che mi conoscono come i bambini da Sonia, e vi lascio con una delle canzoni più strane che sentirete domani. Non sei un uomo se come un frate chiedi perdono. Non sei un uomo se fare mazzate non sei buono. Non sei un uomo se tua moglie di te se ne fotte. Non sei un uomo se, se non la gonfi di botte. Non sei un uomo se non guidi le macchine grosse. Non sei un uomo se non tiri due ganci alle giostre. Non sei un uomo se hai paura. con la forza, ma con la forza degli argomenti. Non ascoltare questi mentecatti. Un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti. Non si va avanti con la forza, ma con la forza degli argomenti.